Capitolo 117. Il regno di Oreste. Alete, figlio di Egisto, usurpò il regno di Micene, perché prestò fede alla falsa voce, sparsa forse da Eace, che Oreste e Pilade erano stati sacrificati sull'altare di Artemide Taurica. Ma Elettra, che ne dubitava, andò a consultare l'oracolo di Delfi. Ifigenia era appena giunta a Delfi e Eace la indicò a Elettra come l'assassina di Oreste. Il cuore acceso dal desiderio di vendetta, Elettra prese un tizzone dall'altare e stava per accecare Ifigenia, che non aveva riconosciuta dopo tanti anni, quando Oreste entrò nel tempio e mise in chiaro ogni cosa. I figli di Agamennone, finalmente riuniti, tornarono a Micene, dove Oreste pose termine alla lunga rivalità tra la casa di Atreo e quella di Tieste, uccidendo Alete. La sorella di costui, Erigone, sarebbe anch'essa perita per mano di Oreste se Artemide non l'avesse rapita portandola nell'Attica. In seguito l'ira di Oreste si placò. Taluni dicono che Ifigenia morì o a Braurone o a Megara, dove ora sorge il suo santuario, altri che Artemide la rese immortale come Ecate la giovane. Elettra, maritata a Pilade, gli diede due figli, Medone e Strofio II. Giace sepolta a Micene. Oreste sposò sua cugina Ermione, poiché aveva assistito al sacrificio di Neottolemo, figlio di Achille, cui Ermione era stata promessa. Da lei ebbe un figlio, Tisameno, suo erede e successore, e da Erigone, la seconda moglie, ebbe un altro figlio, Pentilo. Quando Menelao morì, gli Spartani chiesero a Oreste di divenire loro re, perché preferivano lui, nipote di Tindareo, a Nicostrato e a Megapente, figli di Menelao e di una schiava. Oreste, che con l'appoggio di truppe fornite dagli alleati focesi aveva già aggiunto buon parte dell'Arcadia ai suoi domini micenei, divenne ora signore di Argo, perché il re Cilarabete, nipote di Capaneo, era morto senza discendenti. Conquistò anche la Caia, ma in seguito, obbedendo all'oracolo delfico, emigrò da Micene in Arcadia, dove all'età di 70 anni morì per il morso di un serpente a Orestia o Orestea, la città che aveva fondato durante il suo esilio. Oreste fu sepolto a Tegea, ma durante il regno di Anassandride, che governò con Aristo e fu l'unico re della Laconia che ebbe due mogli e visse in due case contemporaneamente, gli Spartani, disperati per aver perduto fino a quel giorno tutte le battaglie combattute contro i Tegeati, mandarono un messaggero a Delfi a chiedere consiglio, e l'oracolo disse loro di impossessarsi delle ossa di Oreste. Poiché nessuno sapeva dove giacessero tali ossa, Lica, uno dei benefattori di Sparta, si recò di nuovo a Delfi per chiedere chiarimenti e si ebbe questa risposta in versi. «Percorri la pianura dell'arca del Tegea e vai dove due venti sempre, mossi da dura necessità, soffiano, dove i colpi risuonano sui colpi, dove il male sul male giace. Laggiù la prolifica terra racchiude il principe che vai cercando. Portalo alla tua casa e sarai il signore dei Tegeati». Poiché tra i due stati vi era allora una tregua, Lica non ebbe difficoltà a recarsi in Tegea. Là si imbatté in un fabbro che forgiava una spada di ferro anziché di bronzo e fissò a bocca aperta l'insolito spettacolo. «Questo lavoro ti sorprende?» chiese gioviale il fabbro. «Ebbene, io ho qualcosa che dovrebbe sorprenderti ancora di più, una bara di 7 cubiti che contiene un corpo altrettanto lungo. La trovai sotto l'impiantito della mia bottega mentre scavavo bene a fondo». Lica subito pensò che i venti menzionati dai versi dell'oracolo dovevano essere quelli soffiati dal mantice del fabbro ferraio, i colpi quelli del suo martello, e il male che giaceva sopra il martello ancora che batteva sulla spada di ferro, perché l'età del ferro portò con sé giorni neri. Tosto recò queste notizie a Sparta, dove i giudici, dietro suo consiglio, finsero di condannarlo per violenza. Poi, fuggito a Tegea come se volesse evitare la pena capitale, indusse il fabbro a nasconderlo nella sua bottega. A mezzanotte rubò le ossa dalla bara e ritornò in gran fretta a Sparta. Le spoglie di Oreste furono colà seppellite presso il santuario delle Moire e la sua tomba si vede ancora. Le armate spartane da quel giorno furono sempre vittoriose sui Tegeati. Lo scettro di Pelope, a forma di lancia, che passò anche nelle mani di suo nipote Oreste, fu scoperto nella Focide non molto tempo fa. Giaceva sepolto con una cassa d'oro al confine tra Cheronea e Fanoteo, dove probabilmente era stato nascosto da Elettra. Quando vi fu un'inchiesta sul ritrovamento di tale tesoro, quelli di Fanoteo si accontentarono dell'oro, ma i Cheronei si tennero lo scettro, che essi ancora onorano come loro suprema divinità. Il sacerdote addetto al culto ed eletto ogni anno conserva lo scettro in casa propria e gli offre quotidianamente vittime accanto a un tavolo carico di ogni sorta di cibo. Alcuni tuttavia negano che Oreste sia morto in Arcadia. Dicono che dopo aver trascorso laggiù il suo periodo di esilio, gli fu ordinato da un oracolo di recarsi a Lesbo e a Tenedo e di fondarvi colonie, dove si radunarono coloni giunti da varie città, tra le quali Amicle. Oreste obbedì e chiamò Eoli i coloni, perché Eolo era il loro più prossimo antenato comune, ma morì subito dopo aver edificato una città in Lesbo. Quella emigrazione ebbe luogo, e si dicono, 4 generazioni prima di quella ionica. Altri tuttavia dichiarano che fu il figlio di Oreste Pentilo e non Oreste stesso a conquistare Lesbo, e che suo nipote Grante, con l'aiuto degli Spartani, occupò il territorio tra la Ionia e la Misia, ora chiamato Eolide, e che un altro nipote, Archelao, guidò i coloni eolici alla attuale città di Cizicene, presso Dascilio, sulle rive meridionali del Mar di Marmara. Tisameno frattanto succedette al padre, ma fu scacciato dalle città di Sparta, Micene e Argo dai figli di Eracle e si rifugiò col proprio esercito in Acaia. Suo figlio Comete emigrò in Asia. Ifigenia pare sia stato un appellativo della primitiva Artemide, che era non soltanto vergine, ma anche ninfa. Ifigenia significa che genera una forte stirpe e vegliarda. Si identificava cioè con le venerande e la triplice Ecate. Quanto a Oreste, si dice che abbia regnato su tante città, che anche il suo nome deve essere considerato un appellativo. La sua morte, avvenuta per il morso di un serpente a Orestea in Arcadia, ne ricollega il mito con quello di altri re primitivi, come Apesanto, figlio di Acrisio, identificabile con Ofelte di Nemea, Munito, figlio di Atamante, Mopso il Lapita, morso da un serpente libico, e l'egiziano Ra, una personificazione di Osiride pure morso da un serpente libico. Questi serpenti mordevano sempre al tallone, a volte, come nel caso dei centauri Chirone e Folo, del cretese Talo, del mirmidone Achille e dell'eubeo Filottete, il veleno fu iniettato dalla punta di una freccia. L'Oreste Arcade fu in verità un pelasgico che aveva rapporti con la Libia. Artemide che salva Erigone dall'ira di Oreste è uno dei tanti episodi della lotta tra la casa di Tieste, protetta appunto da Artemide, e la casa di Atreo, protetta da Zeus. Il nome di Tisameno, forza vendicatrice, ci lascia supporre che questa inimicizia fosse stata tramandata alla generazione seguente, perché, secondo una delle versioni di Apollodoro, Tisameno era figlio di Erigone e non di Ermione. Chi analizzi la storia di questa lotta non deve dimenticare che l'Artemide che qui misura la propria forza con Zeus è l'antica Artemide matriarcale più che la tenera gemella di Apollo, la cacciatrice vergine. I mitografi hanno fatto del loro meglio per occultare l'attiva partecipazione di Apollo alla vicenda a fianco di Zeus. Le ossa dei giganti, di solito identificate con quelle di un antenato della tribù, erano considerate magici talismani che proteggevano la città. Così gli ateniesi, per consiglio di un oracolo, recuperarono a Sciro quelle che si sostenevano essere le ossa di Teseo e le riportarono ad Atene. È possibile che queste ossa fossero di notevoli dimensioni, perché una razza di giganti e i Vatussi che vivono nell'Africa equatoriale ne sono i discendenti, prosperò nell'Europa neolitica e i loro scheletri, di più di 2 metri, furono casualmente ritrovati anche in Gran Bretagna. Gli Anakim della Palestina e della Caria appartenevano a questa razza. Tuttavia, se Oreste era un acheo che visse al tempo della guerra troiana, gli ateniesi non poterono ritrovarne e misurarne lo scheletro, dato che tra i nobili omerici era in uso la cremazione e non l'inumazione all'uso neolitico. Il male che giace sul male è di solito interpretato come la spada di ferro che viene forgiata sull'incudine di ferro. ma le incudini di ferro furono usate in un'epoca relativamente tarda, mentre invece il martello, che si posa sulla spada, ne rimane la spiegazione più attendibile, benché, a dire il vero, i martelli di ferro fossero rari anche all'epoca romana. Il ferro era un metallo troppo prezioso perché i micenei lo usassero normalmente. Non veniva infatti estratto dal minerale grezzo, ma dalle meteoriti mandate dagli dei. E quando infine armi di ferro furono importate in Grecia dalla Tibarenia e dal Mar Nero, il processo di fusione e di manifattura rimase per molto tempo segreto. I fabbri continuarono a essere chiamati artefici del bronzo anche in epoca ellenistica. Ma non appena tutti furono in grado di possedere un'arma o un utensile di ferro, l'era del mito si chiuse, se non altro perché il ferro non era incluso nella lista dei 5 metalli sacri alla dea e collegati ai riti del suo calendario, e cioè l'argento, l'oro, il rame, lo stagno e il piombo. Lo scettro di Pelope, a forma di lancia, simbolo della sovranità, apparteneva senza dubbio alla grande sacerdotessa. Secondo Euripide, anche la lancia che uccise Enomao era nascosta nella camera da letto di Ifigenia. Clitennestra ne rivendica il possesso e, secondo Pausania, Elettra la portò nella Focide. I greci dell'Asia Minore si compiacevano di credere che Oreste avesse fondato laggiù la prima colonia eolica, poiché il suo nome era uno dei loro appellativi regali. Forse essi si rifacevano a un'usanza che segna un secondo periodo nella storia del potere regale. Quando scadeva il termine del re sacro, questi poteva evitare la morte sacrificando un sostituto, commettendo cioè un omicidio, fatto che spiegherebbe il secondo esilio di Oreste, e poi emigrava per fondare una colonia oltremare. I mitografi scrissero che gli Spartani preferirono Oreste ai figli di Menelao perché questi erano nati da una schiava, ma non si rendevano conto che a quell'epoca la discendenza era ancora matrilineare. Oreste, come miceneo, poteva regnare grazie al suo matrimonio con l'erede al trono di Sparta, Ermione. I fratelli di lei dovevano cercarsi un regno altrove. In Argolide, una principessa poteva avere figli illegittimi da uno schiavo e nulla impediva al rozzo marito di Elettra, in Micene, di avanzar pretese sul trono. L'affermazione del salmista che gli anni dell'uomo sono 7 volte 10 si basa non sull'esperienza ma su una teoria religiosa. 7 era il numero della santità, 10 il numero della perfezione. Anche Oreste raggiunse i 70 anni. Può darsi che Anassandride abbia dovuto infrangere la tradizione monogamica per ragioni dinastiche. Forse Aristo, il suo co-re, morì molto prima della fine del regno e non fu possibile incoronare un altro al suo posto. Poiché egli aveva regnato in virtù del suo matrimonio con un erede al trono, Anassandride lo sostituì sia come re sia come marito. Le iscrizioni ittite indicano che vi era già un regno acheo in Lesbo, verso la fine del 14° secolo a.C.